Allora, intanto io ti ringrazio Riccardo di essere al telefono con noi. E in questa giornata so che tu sei in piazza in una giornata di paro nazionale. Allora, raccontaci come sei arrivato a questo paro, perché? In ogni caso, questo è ovviamente stato. Bueno, innanzitutto, Marta, ciao e ciao a tutte e a tutti. Grazie per la corrispondenza, per questa opportunità. È una giornata sicuramente importante. Penso che qui sta culminando oggi due anni di movimenti e di situazioni molto anche drammatiche che stiamo vivendo qui nel paese. Dall'elezione del nuovo governo di estrema destra, il governo Duque, si stanno compiendo parecchie, diciamo, di quelle che erano le nefaste promesse elettorali. È molto importante, bisogna sottolineare gli omicidi mirati contro lideresas, i lideres sociales, attivisti, attiviste, persone che lottano per la difesa dei territori, per la restituzione della terra. E questo è sempre il tema profondamente chiave del conflitto che viviamo qui in questo paese da più di mezzo secolo. E il paro è un paro plurale, è un paro inclusivo, che sono molte anime. Qui io in questo momento sono qui a Cartagena d'India, la costa Caribe. Non ti posso dire esattamente o nemmeno approssimativamente quante persone ci sono, perché ancora non lo so, però sicuramente è una delle mobilizzazioni più grandi che io ho visto da quando sono in Colombia. Stiamo parlando di più di 15 anni, e quindi è un dato importante. Le rivendicazioni sono multipli, e potremmo parlare ore e ore. Ovviamente prima cosa della lista bisogna parlare delle politiche estrattiviste del governo. Reiterare con decreti processi di estrazione di risorse, fracking, anche se è ancora controverso, però la tendenza è quella, la non restituzione di terra. Ci sono stati dei casi molto, molto seri, molto orribili ultimamente, negli ultimi mesi, di giudici che insultano le vittime del conflitto armato durante un processo, negando la validità della restituzione di terra come meccanismo di giustizia di transizione. No, mi chiedevo se un po' adesso, tra il trattato di pace e questo nuovo governo, si è un po' aperto un canalone, un portone enorme che dà molto via al liberismo, che veniva chiamato come trattato di pace, che forse era il primo passo per aprire questo enorme portone, o no? Sì, il trattato di pace è ovviamente un processo molto controverso e difficile da portare avanti, e questo ne siamo coscienti tutti e tutte. Nei territori questo trattato di pace ancora in un certo senso è lettera morta, però questo non toglie che le comunità indigene, io penso tu lo sai, lavoro con un'organizzazione indigena da parecchi anni. Esatto, le comunità indigene, le organizzazioni indigene, le organizzazioni contadine, le organizzazioni di donne del movimento Para la Paz, le organizzazioni LGBTIQ, tutti e tutte appoggiamo gli accordi di pace. Certo. Quello che stiamo facendo è spingendo, diciamo, verso il compimento dell'accordo. Esatto. Mentre ovviamente il governo di estrema destra, dall'altra parte, il governo duchista, uribista, ha innescato meccanismi a tutti i livelli, dalle basi, dagli omicidi selettivi nelle comunità, alla lotta giuridica nei tribunali, alla lotta politica nel Parlamento e nel Senato, per disinnescare tutti quelli che sono i meccanismi legali, giuridici e anche sociali degli accordi di pace. La cosa interessante è che chissà la Colombia che io conobbi 15 anni fa non è la Colombia di oggi. Questa è forse una Colombia che ha meno paura, è una Colombia più cosciente, è una Colombia più diversa, è una Colombia che nelle ultime elezioni ha anche dimostrato di avere un potenziale anche alle urne di alternativo e di dissenso. E quindi che queste son cose nuove, io stesso mi stupisco, e bisogna sottolinearlo, è abbastanza importante. Marta, io volevo per farti parlare un paio di minuti con un compagno, Cristian, del movimento LGBT qui a Cartagena in India. Lui vorrebbe dirti due parole. Ok, perfetto, allora te lo passo. Certo. E ti passo a Cristian, ok, lui ti presenta e tu lo traduci. Certo. Va bene? Ok, grazie. Grazie a te. Cristian, how are you? Mucho gusto, feliz de oírte. Me dice Ricardo que eres del movimiento LGBTIQ. Así es. Que me llena de felicidad. Estamos presentes en la movilización nacional. Las maricas, las periféricas, las que vivimos en los barrios pobres de nuestras ciudades, también estamos haciendo presencia en la movilización, porque también somos unos cuerpos oprimidos, unos cuerpos en resistencia que todo el tiempo, 365 días al año, nos toca soportar la opresión sistemática de un Estado que no comprende nuestras luchas, que no comprende nuestras exigencias y nuestras necesidades, que lleva años intentando camuflar su inoperatividad detrás de políticas públicas inoperantes y neoliberales. Sí, dame un segundo, bueno, que traduzco. Dame un segundito. Dame un segundito para traducir. Movilizaciones en las vías de hecho. Sí, dame un segundo para traducir. Entonces, Cristian es del movimiento LGBTQ, etcétera, etcétera, della Colombia. Sono molto contenta perché non avevamo mai parlato al telefono con un rappresentante di questo movimento, che ci racconta che loro sono appunto i marica, gli omosessuali, comunque le trans, le persone che vengono dal movimento LGBTQ, che viene dai quartieri poveri, dalla periferia della città, e che sono venuti a stare in piazza per reclamare quello che è un sistema di governo che li opprime, che li rende invisibili, che parla del rinnovo di un sistema di salute che comunque non li comprende e che li lascia fuori da questo sistema. Mira, soy muy feliz de hablar contigo. ¿Tú puedes contar un poco cuáles son las cifras y el problema de la transfobia, de la homofobia en Colombia? Bueno, tenemos que decir que uno de los grandes retos para la población de maricas LGBT, travestis, sexuales, transformistas, maricones, es primero sobrevivir a esta día a día. Sobrevivir es que no nos maten, porque vivimos en un Estado fascista que odia a los cuerpos transgresores, que odia a los cuerpos que se salen de la norma, de la heteronorma. En ese sentido, las travestis, las maricas afeminadas, todas las que no respondemos con esa norma, estamos en peligro constante de ser asesinadas. El índice de feminicidios es inferior incluso al índice de transfeminicidios. La mayor parte de los asesinatos de personas LGBT son de mujeres trans afrodescendientes, negras. Porque este Estado, además de ser homolesbotransfóbico, es profundamente racista y clasista. Allora, entonces, yo obviamente, que cuando nosotros... Perdón, traduzco pedacitos y no me pergo algo. Allora, chiaramente lui ci dice, gli ho chiesto quali sono i numeri dell'omolesbotransfobia. Quali sono i numeri dell'omofobia, della transfobia in Colombia, perché so che tristemente sono dei numeri altissimi. Cristian ci racconta che appunto vivono in un paese dove tutti quei corpi che non sono corpi conformi, quindi degli omosessuali effeminati piuttosto che degli o delle trans, sono appunto corpi che vengono cercati di far sparire. Addirittura in Colombia il numero delle vittime per transfobia è superiore a quella dei femminicidi, che vi assicuro non è per niente bassa, e che la maggioranza della transfobia e degli omicidi per transfobia sono su trans afrodiscendenti, e questo sicuramente non è un caso. Sì, mi sta dicendo lo numero della transfobia, del hecho que muchas trans que son matadas son afrodescendientes y trans, ¿no? Okay. Sí, y lo que ocurre es que este Estado invisibiliza sus fuentes, no le dice a la gente cuántas trans mueren, o lo toman como casos de románticos. Los asesinatos de nuestras muertes, de nuestras trans y de la población LGBT, los camuflan detrás de la excusa de crímenes pasionales. Como si nos estuviésemos matando entre nosotras mismas, porque supuestamente no soportamos que nos dejen. Claro. Entonces esa es una de las excusas, que por nuestros comportamientos sexuales nos matan. Y eso es lo que está provocando es que haya un asesinato sistemático de nuestras cuerpas. Quindi quello che succede è che tenemos mucho miedo porque la policía también nos hace daño. La policía nos persigue porque también es una policía transfóbica, homofóbica, que odia nuestros cuerpos también. Allora, chiaramente mi dice che loro sono molto spaventati perché tra l'altro moltissimi di queste morti vengono fatte passare come omicidi passionali e quindi lasciando trasparire che la passione tra una trans o un omosessuale, insomma, che quel tipo di amore è un amore omicida, è un amore malato, è un amore perverso, è un amore morboso. E quindi loro vengono poi perseguiti da tutto quello che è un sistema di polizia, che è un sistema di polizia assolutamente machista, omofobo e transfobico. Se siente mucho ruido en esa manifestación, se ve una manifestación muy grande. Sí. Las organizaciones obreras, los docentes, los estudiantes, por supuesto las maricas, las lesbianas, las queras, las que les gustan las mujeres, pero se juntan detrás de la fachada del closet. Bueno, tienen buenas aliadas entonces. Aquí estamos todos y todas. Aquí estamos todos porque es que este país se está viniendo abajo, Marta. Este sí. País está viniendo abajo y nos estamos viniendo y quienes estamos recogiendo los escombros somos nosotros. Bueno, yo te agradezco. Recogiendo los escombros con nuestros cuerpos somos nosotras. Sí, eso tiene que hacerle fuerza. Empezar ahora a juntarse con más realidades para que sea un... Bueno, sigo traduciendo. Desde allá, desde Italia, todas las marigas, todas las travestis, todas las personas que tengan conciencia ética, los que sepan que en las cosas en Latinoamérica y en Colombia están ocurriendo de la manera que no se debería ocurrir políticamente hablando, a esas personas les pedimos solidaridad, que nos apoyen, que nos busquen en las redes sociales, que nos busquen, porque aquí de esa manera es que se pueden enterar de la realidad de lo que está ocurriendo en las calles. Es lo mismo que en Venezuela, los medios de comunicación hegemónicos están construyendo una fachada, están construyendo una pantomima sobre nuestras realidades y nuestra realidad está en nada. La policía nos está matando, persiguiendo, torturando, la salud, los pensionados, los estudiantes, es toda una inconformidad colectiva. Esta movilización grande no es resultado del foro de Sao Paulo. Esta es una movilización resultado de las inconformidades acumuladas del pueblo colombiano. Bueno, Cristian, yo te agradezco muchísimo. Ahora terminaré de traducir lo que me dice. Y ¿aló? Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Bueno, yo seguiré traduciendo. Lo seguiré traduciendo lo que me has dicho. Sí. Y te brindo la solidaridad mañana, que acaba de ser el día de la remembranza trans. Y te abrazo por eso. Y te saludo, te agradezco. Y que, gracias. Y que cuando sea me escribe, acá tenemos una radio para hablar de eso. Claro que sí. Te abrazo para todos. Te abrazo apoyen mucho. Apoyen la marcha, apoyen los movimientos sociales, apoyen al pueblo colombiano, el de verdad, que sube las opresiones. Chao. Chao, gracias. E giustamente lui appunto diceva di cercateci nelle reti sociali. Sì, stavo finendo di tradurre, dicevo che appunto Cristian ci diceva cercateci nelle reti sociali, e in un mondo che parla della Colombia come un paese così, uno dei più tranquilli della Latino America, che si sappia invece che ci ammazzano, che questo paese sta cadendo a pezzi, che non c'è spazio per noi in questo paese, e quindi solidarizzate con le marce, solidarizzate col tessuto sociale, con le organizzazioni sociali. E questo insomma all'alba della giornata di domani, che vedrà Roma percorsa da un bellissimo corteo per la remembranza trans, mi sembra che c'è stava veramente tutto. Riccardo, stiamo... Allora, è un po' complicato seguirti tra un tamburo e un altro, ma devo dire che ci hai reso benissimo l'idea anche dell'allegria, della vita di questa piazza e del bisogno che c'era di scendere. Sì, no, sì, grazie Marta. Questo ovviamente è un momento importante, è un momento della storia, è un momento della storia dei popoli. Ovviamente continueremo, come dicono le mie compagne, i miei compagni delle comunità giù del Putumayo, del Cauca, del Caquetá, che in questo momento stanno facendo, bloccando la Panamericana. Continuiamo a camminare, creando sempre più alleanze, questo è molto importante, con internazionali, con persone di altri paesi, e continuiamo ad avanzare e a camminare, come si dice qua, la parola. Camminare la parola con il cuore, con il cervello e con il corpo. Veramente grazie Riccardo, noi ci sentiamo presto, tu insomma il mio contatto ce l'hai, insomma noi ci sentiremo da qua ai prossimi giorni, anche con Cristian mi piacerebbe rimanere in contatto, quindi noi poi ci sentiamo e ti ringrazio e abbracciami tutta la piazza, tutta Cartagena tra l'altro, bellissima. Bene, ciao, certo che sì, ciao, saluti a Roma, ai compagni, un grande abbraccio, ciao. Un abbraccio, ciao, a presto.